Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa puntata dei Fumetti a Sinistra, il mondo dentro il balloon, che riprende la seconda parte dell'intervista curata da Morena Moretti ad Amedeo Gigli, questo grande illustratore, oggi 88enne, che ha vissuto quindi tutto il mondo della raffigurazione del disegno dal dopoguerra ad oggi, passando per le tante tecniche. Abbiamo ascoltato l'altra volta, quando da ragazzino col carbungino dipingeva sui muri, fino agli anni dell'Accademia, un duro lavoro di disciplina legata anche allo studio del nudo, la figura più difficile evidentemente da riprodurre. Continuiamo allora questo percorso in avanti con Amedeo Gigli, che incontra anche le nuove tecniche come l'aerografo, questo spruzzo d'aria del colore, un po' come quelli delle carrozzerie delle nostre automobili, per venire poi al rapporto non semplice col computer di una persona che evidentemente ha vissuto in tutt'altri mondi, che si trova appunto precipitato in questi anni 2000. Dopo lo stacco musicale, dunque, riprendiamo l'intervista a cura di Morena Moretti. Amedeo Gigli, tu quando disegnasti per il Pioniere la storia dell'uomo e della civiltà, sì, che era fatto all'inizio degli anni 50, diciamo che lo sceneggiatore, chiamiamolo così, era Dino Platone, tutta quella storia fu fatta appunto così al tratto in bianco e nero. Sì. Ad inchiostro vichina, certo. E io facevo addirittura dei ritratti di mia sorella. Mia sorella mi posava anche nuda perché era appassionata quanto me, e direttamente a inchiostro, cioè senza andare sotto con la matita. Avevo ormai una padronanza del disegno, perché il disegno all'inizio, come primo impatto, basta diciamo un pomeriggio per comprendere qual è l'impostazione che devi avere mentale, eccetera. Poi ci vogliono 5 anni, 10 anni, per imparare a portarlo fino in fondo, per cui avevo questa padronanza, per cui disegnavo direttamente o col pennino o col pennellino. Per esempio, io sempre l'inchiostro di china bianco e nero, ho iniziato a lavorare professionalmente con le case di produzione cinematografica, Paramount, Golden Eye, la Columbia, facendo i flani. I flani erano dei rettangoli fatti soltanto a inchiostro di china, dei film, per cui riproducevano in un certo senso l'impostazione dell'affisso che andava, diciamo, incollato al muro, fatto apposta per queste cose. Ladri di biciclette, ti ricordi? No? Sì, che sì, stiamo parlando delle locandine, praticamente, dei manifesti cinematografici. No, la locandina è una cosa diversa. Ah. Cioè, la locandina è un formato verticale, sì, che si espone al cinema. Cioè, quando esce il cinema viene decorato, proprio la sala cinematografica, dalle locandine oppure da montaggi di fotografie. L'affisso è il manifesto, stradale, per capirci, perché il manifesto è grande, no? Addirittura arrivava a 12 metri per 6, delle cose straordinarie. C'erano dei film, per esempio, sui pirati, i manifesti li faceva un certo Martinati, erano le battaglie navali, ma di 12 metri, capito? Piazza del Popolo, una cosa del genere si prendeva tutta l'attenzione. Certo. Quindi diciamo che da questa tecnica a tratto chiaroscuro, poi tu già lavoravi col colore, ma sei passato anche nelle tue illustrazioni poi decisamente al colore, facendo certamente anche delle cose bellissime, precisissime, straordinarie. Certamente. Diciamo che il colore poi diventa l'elemento essenziale per lavorare sia per l'editoria, sia per la pubblicità, anche per le aziende aerospaziali, automobilistiche, cose di questo tipo. Amedeo, ti chiedo una cosa che è quanto tempo occorreva? Cioè per fare un episodio, per esempio, della storia illustrata sul Pioniere, questo in bianco e nero, no? A tratto, quanto tempo occorreva? Con naturalmente l'esperienza e la professionalità che tu già comunque avevi acquisito, no? Sai, è un po' difficile standardizzare il tempo perché dipende dalla complessità di quello che stai facendo. Diciamo che consegnavamo le puntate settimana per settimana, non riuscivamo a fare, diciamo, avvantaggiarci, era impossibile. Per cui per fare una puntata del Pioniere della storia della civiltà di Dino Platone ci potevano mettere un 3-4 giorni. Certo, quindi tempi comunque lunghi effettivamente. Sì, certamente, considera che io ho fatto anche 32 ore complessive, continuative di lavoro, ero pieno di lavoro fra la pubblicità, l'editoria, eccetera, 35 ore giorno e notte, e arrivava il Pony Express a prendere il lavoro per portarmene un altro da consegnare il giorno stesso. È una cosa micidiale, però quello che ti stavo dicendo, sì, che è molto molto importante, è che io andai a lavorare presso un certo Fausto Conti, un professore, un monarchico, ma una persona di una gentilezza, di una signorilità, di una bontà, mi voleva bene come un figlio, questo lo devo dire. E lì per la prima volta vidi l'aerografo. Per fartela breve, le agenzie pubblicitarie, quando ero proprio avviato, mi chiamavano il mago dell'aerografo. Ora, in che anno era questo incontro con l'aerografo? In che anno lo hai fatto? Ecco, io lì ho visto il professore che lo usava. Io usavo ovviamente le campiture di colore, sì, con i pennelli, eccetera. Stiamo parlando degli anni 50? Anni 50, sì, senz'altro, sì. Non oltre. Poi dopo ovviamente comprai l'aerografo, verso gli anni 60, 70 ho lavorato moltissimo, appunto quasi esclusivamente con l'aerografo, il quale richiede, diciamo, una tecnica tutta particolare. Il disegno è il fondamento, quello come abbiamo detto all'inizio, però poi lì c'è un gioco di mascherine, tu sul disegno metti lo scotch intorno, poi lo scotch lo ritagli con una taglierina, no? E vai intorno tutto al contorno, dopodiché metti l'inchiostro o il colore a tempera sulla pennetta e lo spruzzi con delicatezza nel punto dove ti serve, poi tu togli lo scotch e ti viene la sagoma esatta di quello che volevi rappresentare. Poi magari sopra a questo ci riaggiungi di nuovo altre mascherine. È un gioco molto complesso, sì, ma anche molto divertente. Un transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire, e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela, ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino canterino addomesticherò per le giornate scure di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino addomesticherò per le giornate scure di quando il mare e il cielo dicono di noi non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire, e il vento forte di Levante la sventolerà che si potrà vedere. Una bandiera senza segni ti regalerò e una clessidra d'oro, quando la sabbia del deserto la trascorrerà ti potrai riposare. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di noi non si può tornare. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di noi non si può viaggiare. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di noi non si può più tornare. Transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire, e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Amedeo Gigli, ultimamente il lavoro a computer, diciamo, ha facilitato molto anche il tuo lavoro, l'utilizzo cioè di programmi. Tesoro, è cambiato tutto, perché tu considera che io sono stato 4 anni a Milano e ho lavorato moltissimo per Quattro Rose, per gli editori alle Domus, eccetera, eccetera, e anche per Corriere della Sera, illustrato il Corriere dei Piccoli, eccetera, eccetera. Tornando a Roma, io ho seguitato a lavorare per loro, ogni tavola che facevo poi con la mia ritmo andavo a portarlo a Milano, e quindi ogni volta che dovevo consegnare una tavola partivo con la mia ritmo, 170 km l'ora faceva, è tremenda, una macchina stupenda, e portavo lì la tavola, me la pagavano, tornavo a Roma. Col computer tutto questo è scomparso, perché io faccio la mia tavola al computer e la spedisco con vetraste, eccetera, eccetera, sì. E non c'è più, diciamo, ecco, questo è molto migliorato. Poi è molto migliorato l'aspetto fra l'originale e la stampa, perché a quei tempi l'originale veniva fotografato professionalmente, quindi era un costo aggiuntivo notevole. Da questa fotografia si faceva la separazione dei quattro colori, no? Sì. Il giallo, il magenta, il blu e il nero. E da queste separazioni si facevano le quattro pellicole retinate con il retino, le quali poi venivano trasferite sulle lastre di zinco che andavano in macchina di stampa, che stampava prima il giallo, poi il rosso, poi il celeste, poi il nero, sovrapposti uno all'altro. Per questo si vede qualche volta il fuori registro, no? Quelle ritine gialle che girano tutto intorno, sì. Non so, sì. Ecco, quello è scomparso tutto. Oggi come oggi tu mandi il file PDF, loro hanno delle stampanti a getto d'inchiostro a 6.000-8.000 DPI, non so se ti rendi sì, conto. Sì, certo, a quel livello, quindi è iperrealismo, capito? Ecco, questo è il vantaggio enorme. E quello che io invece uso ancora come ricerca, per capirci, è di portare nel computer quel gusto, quel sapore, quella... Sì, che lo tocchi un po' dalla banalizzazione o dalla standardizzazione, ecco, diciamo così. Sì, sì, però io, diciamo, mi sono specializzato nei lavori molto complessi, no? Spaccati di automobili, di aeroplani, per cui sono sempre andato nel dettaglio minuto, per cui un conto è fare le cosine precise come sono, un conto far sentire il gusto della pennellata, e quello non si recupera, certo, più. Il tuo ultimo lavoro, Amedeo, è sulle donne aviatrici, se non sbaglio. Esatto, esatto, ho fatto un libro, diciamo che è la storia di 20, di circa 20 ragazze, è una cosa straordinaria, no? Delle ragazze venivano chiamate dai tedeschi, dai nazisti, le streghe della notte, perché arrivavano con dei vecchi aeroplani a motore spento di notte, picchiavano sulle postazioni e avevano il grembo pieno di bombe a mano e tiravano queste bombe a mano. Poi c'erano quelle che volavano sui caccia, veramente quelli moderni del tempo, e a tu per tu con i carri armati, ragazze dei 20-25 anni, ecco, e quindi diciamo, vabbè, quello c'è da vederlo. Poi io ho colto l'occasione, dato che avevo un centinaio di pagine, di mettere anche qualche esempio di mie illustrazioni pubblicitarie, di altre cose, insomma, capito? Quindi l'ho un po' arricchito, anche io ho fatto dei pannelli di 1,70 m per il Museo Storico dell'Aeronautica Militare, e lì ci ho messo anche qualche esempio di quel genere. E diciamo l'80-90% riguarda l'aeronautica. As we watch you die, all we can do is echo your anguish cries. Stare as all human feelings die. We are leaving, you don't need us. We'll be right back. sister than mother. Hey, lead her away from this foreign land, far away where we might laugh again. We are leaving, you don't need. South on my shoulder, guess I'll set a course and go. E dopo l'intervista di Moreno Moretti ed Amedeo Gigli, questo decano delle illustrazioni italiane, veniamo invece al teatro che si interseca col fumetto fino in fondo, perché un autore già disegnatore, cioè Andrea Sant'Anastaso, rappresenta Mi chiamo Andrea, faccio fumetti, un lavoro di Cristian Poli con la regia di Nicola Bonazzi. È un omaggio all'arte di uno dei più grandi disegnatori di fumetti, ma anche pittore, autore, poeta, che il nostro paese abbia avuto, cioè parliamo di Andrea Pazienza, secondo appunto Andrea Sant'Anastaso, ai microfoni del nostro Willy. Il protagonista in scena Andrea Sant'Anastaso è qua con noi. Tu appassionato, disegnatore, quant'altro. Quale emozione nell'interpretazione di Pazienza? Totale, completa, perché poi in realtà racconto Andrea Pazienza attraverso la mia vita, quindi in realtà un'emozione totale, perché racconto fatti reali che mi appartengono, ci metto tutta l'emozione che... quella di un attore che mette in scena uno spettacolo, a quella ci aggiungo l'emozione di una persona che quei fatti che racconta li ha vissuti. Io sono stato un fan accanito del lavoro di Paz, un ammiratore che più ne ha più ne metta, e in questo spettacolo racconto proprio quella passione lì. Poi per un disegnatore Paz è una cosa fondamentale, come per uno che vuole studiare arte, occuparsi di arte, non sapere chi è Caravaggio, è uguale, guarda, il paragone calza a pennello. Tutti e due anche un po' rissosi, un po' nervosi, ecco, sì, esatto, esatto, movimentati, ecco, il paragone... Diciamo persone movimentate. Esatto, movimentate. Esatto. Da Andrea Pazienza, cosa ha rivoluzionato nella narrazione, nello stile? Tutto, perché fino a lui, lo racconto nello spettacolo, i fumetti erano Topolino, i supereroi Marvel, che allora erano come i topolini, cioè tutti grigliati, precisi, rigorosi, sicuri, ecco, io lo definisco sicuri, li definisco fumetti sicuri, mettevano sicurezza. Quando è arrivato lui, queste pagine sono esplose, una vera esplosione di inchiostro, colori, forza, frasi, di tutto, e quindi lui ha rivoluzionato da questo punto di vista il mondo del fumetto italiano in maniera totale, completa. A questo aggiungi il fatto che i testi poi erano straordinari, quindi non solo grande disegno, perché lui aveva una capacità unica nel disegnare, ma anche grande capacità di scrivere testi, quindi diciamo che ha cambiato, è stata una svolta quella che ha portato Paz. Poi magari adesso ci sono quelli che disegnano come lui, ma non sanno che quella svolta lì, quel modo di disegnare lì, viene da lui. Quindi l'ha portata lo spettacolo lui. Così serve. Sì, lo scopo è anche quello, ricordare un po' a tutti e a chi non lo sa. Ieri sera ad esempio c'erano dei ragazzi di 20 anni che a fine spettacolo mi sono venuti a salutare e mi hanno detto: noi non sapevamo chi fosse, adesso abbiamo una gran voglia di leggerlo. Ecco, vuol dire che abbiamo fatto 100. La trasformazione da fumetto, quindi realtà di rivolta, il fumetto, io lo vivevo sulle scale di nascosto, sul pianerottolo, perché se mi prendeva la mamma me lo sequestrava e diceva: leggi i tuoi libri di scuola, quindi era un po' la mia arma segreta, hai capito? Il fumetto, sì, era un sì. po' il mio mondo. E adesso invece è diventato graphic novel. Non è che a metterlo su un piedistallo perde un pochettino, è una lancia spuntata come arma di... No, non credo. Io credo che in realtà sia un modo di raccontare la realtà, è il modo in cui racconti, poi che si chiami graphic novel o fumetto, è il modo in cui racconti, è il contenuto quello che conta. E quando il contenuto riesce comunque, nonostante abbia questo vestito della festa, esatto, sotto, ad avere un'anima reale, allora l'anima reale è quella che vince. Quindi appunto è come mettersi una bella giacca ma sotto rimanere pieni di vita e coraggio, non invece essere finti anche sotto. E credo che il fumetto sia imponga di essere vero. Ma sai perché? Perché ci si mette, lo dico da disegnatore, ex disegnatore, ci si mette tanto a farlo. E il fatto che stai tanto tempo su una tavola impone che tu sia sincero, perché se no non ce la fai mica. La tua anima lì si deve mettere per forza a nudo. Poi è chiaro, come racconto nello spettacolo, ci vuole tecnica tantissima, ci vuole è dogmatico nelle regole, non le devi rispettare, eccetera. Però proprio perché ci stai tanto tempo, non puoi non essere te stesso o non raccontare quello in cui credi. Poi da qui si può sindacare sul fatto che quello che uno racconta sia divisibile o meno. Quello vale per tutti. Esatto. Ma ricollegandomi un po' a Willy, adesso i fumetti tendono anche a essere ripresi in ambito cinematografico. Non pensi che sia un po' una deriva negativa? No, in realtà, guarda, in realtà dipende da quello che raccontano. Nel senso che mi è capitato di vedere raccontato in cinema Crumb, tanto per dirti uno dei fumetti della storia del fumetto più violenti, più cupi, più disegnati, perché la sua forza stava nella caricaturalità di quello che lui disegnava. E quando l'ho visto in cinema, quando la trasposizione, il punto è sempre lo stesso, è sincera, allora è vincente. Io penso che siano sinceri anche quelli della Marvel, sì, che vengono cinematograficati, nel senso che credo che anche lì ci sia una sincerità. Chiaro, il business, il guadagno c'è alla base, ma comunque quando vado a vedere i fumetti Marvel guardo mio figlio e attraverso lui vedo della sincerità, perché vedo la gioia che provavo io quando leggevo i fumetti. Certo, i mezzi sono diversi, però ecco, non lo dico ai papà e alle mamme, che sì, non dimenticatevi di quanto meraviglioso sia maneggiare quella carta lì e far vedere ai vostri figli quei colori lì, quelli della carta. Poi dopo il cinema, va bene, viene dopo. È come andare a vedere Harry Potter. Mio figlio prima lo ha letto e lo guarda con occhi diversi se prima lo ha letto. È proprio una cosa diversa, una magia diversa. Però sono tutte e due linguaggi magici, quindi bellissimi. Viviamo in metropoli sotto la città, come le tartarughe ninja. Lottiamo per difendere l'umanità, senza tempo e senza età. Nelle vie di Gotham City, per sconfiggere i banditi, i politici e le web star. Moschettieri e condottieri, ma con i superpoteri diventiamo super saiyan. Armature Iron, Robocop, maschere di ferro, emoticon. In cerca delle sfere, Dragon Ball, con i Pokémon intrappolati negli iPhone. Siamo solo noi, siamo solo noi, dagli anni 90 e dal 2000 in poi. Siamo solo noi, siamo solo noi, che crediamo ancora nei supereroi. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?